Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Oggi parleremo del Libro della Giungla, film del 1967, ed è considerato il 19° classico Disney. È ispirato all'omonimo libro dello scrittore Rudyard Kipling. Il protagonista è il piccolo Mowgli, ovvero un orfano, che viene abbandonato in questa giungla dell'India e viene trovato dalla pantera Bagheera, che lo adotterà insieme ad altri lupi. Mowgli quindi cresce nella giungla, però 10 anni dopo fa la sua comparsa la spietata tigre del Bengala Shere Khan, che è famosa per mangiare gli uomini. Perciò la pantera decide di salvare Mowgli e di portarlo nel villaggio degli uomini. Però Mowgli si rifiuta, infatti scappa, e durante la sua fuga deve anche scappare da Shere Khan e il suo scagnozzo, il pitone Ka. Nel frattempo Mowgli farà conoscenza anche di altre figure all'interno della giungla, come per esempio il famoso orso Baloo, oppure anche il re degli orangotanghi, Luigi, che tra l'altro cercherà di convincerlo, di insegnargli a come fare il fuoco, però Mowgli, essendo cresciuto in mezzo alla giungla, non sa queste tecniche degli uomini. Comunque, alla fine, Mowgli verrà convinto da Baloo e Bagheera di andare nel villaggio degli uomini, per potersi salvare dalla malvagia tigre Shere Khan. E Mowgli verrà convinto da una figura femminile che fa la sua comparsa e di cui si innamora. A livello di realizzazione, dopo La spada nella roccia, che comunque non aveva avuto ottimi incassi, la Disney e gli studios avevano quindi deciso che il loro punto di forza fossero i film con gli animali antropomorfi, o comunque con figure animalesche in un certo senso, e di conseguenza decisero di fare Il libro della giungla, che ebbe effettivamente un grandissimo successo, soprattutto per la colonna sonora, che tra l'altro fu nominata agli Oscar del 1968. Il film è molto importante per gli studios perché è l'ultimo film prodotto con Walt Disney ancora vivo, dato che morirà proprio durante la produzione del film il 15 dicembre 1966. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.